L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati a una nuova puntata dell'Altro Pianeta, vi ricordo l'ultima in questo orario. Dalla prossima settimana infatti ci troveremo la domenica e non più il sabato, dopo il GR delle 19 attorno alle 19:15. Comunque chiudiamo questo ciclo dell'Altro Pianeta del sabato ricordando un evento che fu di risonanza mondiale, accaduto in Italia circa un anno fa. Un evento drammatico che sarà comunque solo la partenza per un ragionamento più ampio che faremo con Ernesto Gori, vicepresidente HES Quality Assurance di Costa Crociere, dove HES, scritto H-E-S-S, sta per Health, Environment, Safety and Security, quindi salute, ambiente, incolumità fisica e sicurezza. Quasi un anno fa, infatti, la notte del 13 di gennaio 2012, la nave da crociera Costa Concordia, ricorderete senz'altro, urtò gli scogli a poche centinaia di metri dall'isola del Giglio. L'impatto provocò uno squarcio di 70 metri nello scafo che ne causò il parziale affondamento. Nell'incidente morirono 32 delle 4.229 persone a bordo. La Concordia un anno dopo è ancora nelle acque del Giglio, dove il consorzio Titan Micoperi sta portando avanti una rimozione senza precedenti. Ci resterà probabilmente la nave lì fino alla fine dell'estate, questo almeno secondo l'ultima previsione che è stata esposta poco prima di Natale dai responsabili delle operazioni in un incontro con i cittadini del Giglio e l'osservatorio di monitoraggio dei lavori che è stato istituito dalla Presidenza del Consiglio. Salvo imprevisti e condizioni meteo marine permettendo, perché su lavori di questo tipo essere precisi sui tempi è impossibile, anche perché è la prima volta che si tenta un'operazione di questo tipo. Fatto questo cappello sulle ultime notizie che riguardano questa vicenda ed escludendo assolutamente dal discorso tutto ciò che in questi mesi sta venendo discusso nei tribunali, abbiamo chiesto a Ernesto Gori che lezione, per così dire, abbia imparato Costa, ambientale o di sicurezza, da quel drammatico incidente. Cos'è cambiato sulle navi, insomma? Abbiamo attivato da subito noi delle misure precauzionali che prima non c'erano, quindi navigazione controllata. Noi abbiamo istituito un centro di controllo qua in sede dove ci permette di avere in tempo reale la posizione delle navi, e se una nave devia anche di poco dalla rotta prestabilita, che deve essere mandata in compagnia prima di ogni partenza, di ogni viaggio, c'è un allarme che suona dove c'è un centro di controllo 24 ore su 24 qui in sede, e quindi c'è subito la persona che chiama la nave e chiede cosa state facendo, e questo è un servizio 24 ore 24. Questa è una delle prime cose che è stata messa su, quindi anche su questo puoi immaginare che tipo di investimento e difficoltà ci siano state, però tutte le nostre navi sono collegate con questo centro di controllo presente qua in sede negli uffici di Genova. Questo, ripeto, esula dal campo ambientale perché è prettamente dedicato alla sicurezza, però ovviamente sulla sicurezza ci siamo attivati da subito per porre in atto delle possibili misure di rimedio, comunque di prevenzione. Quindi il primo intervento è stato sulla sicurezza. E al Giglio com'è la gestione della tutela ambientale, visto che la compagnia ha da tempo una notevole attenzione per l'ambiente e la sostenibilità, tanto da avere avuto collaborazioni anche con il WWF, per esempio. E considerato anche che tra poco, poi nel prosieguo di questa puntata, parleremo del settimo bilancio socioambientale di Costa Crociere. Quello che è successo al Giglio, per estremizzare, non ha nulla a che vedere col tipo di gestione ambientale che facciamo noi, capisci? Una nave sugli scogli in un sito di interesse europeo protetto, eccetera, eccetera, fortunatamente non è cosa di tutti i giorni da gestire. Io non so se lei ha avuto occasione di vedere la difficoltà, il tipo di progetto che è stato studiato, e ovviamente gli impatti ci sono, i rischi potenziali ci sono, perché si tratta di prendere una nave, intanto legarla come è stata legata, è ancora in fase di esecuzione, quindi perché è messa in sicurezza per far sì che con la stagione invernale, quindi col cattivo tempo, questa possa muoversi, e quindi sono stati inseriti dei grossi piloni sul fondale marino, con dei cavi che trattengono la nave per una questione di sicurezza. Ovviamente questo c'ha un impatto. Il progetto prevede poi che sotto la nave vengano sistemate delle grosse piattaforme che saranno ovviamente poi inserite nel fondale a seguito di forature, e anche questo c'è, ovviamente ha degli impatti. Però pur nella difficoltà enorme di questo progetto è stata fatta un'analisi, anche perché se no non ci avrebbero dato il permesso per fare questo, un'analisi ambientale che, partendo dallo studio del progetto, da tutti i rischi potenziali, segue passo passo tutte le attività fino al ripristino delle condizioni precedenti al naufragio. E quindi è un lavoro a fasi che viene controllato non solo da noi, ma la conferenza dei servizi che ha dato il permesso per l'attività, per la partenza del progetto, ha istituito un apposito osservatorio ambientale che lavora a stretto contatto con noi e ci controlla giornalmente. Giornalmente questo proprio sulla parte ambientale. Ripeto, perché i rischi che ne potrebbero derivare sarebbero enormi. Certo. Però ad oggi è andato tutto bene, è gestito correttamente, con grande soddisfazione sia nostra ma anche dell'osservatorio, delle autorità e di tutti quelli che vengono coinvolti da questo purtroppo tragico incidente e quello che ne consegue. Ripeto, prima vi ho detto, dall'inizio dello studio fino al ripristino delle condizioni preesistenti. Le faccio un esempio, quelle sono zone pregiate perché ci sono delle praterie di pozzi di Donia, e anche questo abbiamo scoperto dopo, c'è presenza importante di una pinna nobilis. Quindi noi abbiamo recuperato 180 esemplari di pinna nobilis, li abbiamo rimpiantati in una zona lontana dalla nave, e il momento in cui il relitto verrà trainato via, rimpianteremo queste pinna nobilis nella posizione originale. Dove sarà possibile, la posidonia verrà schiantata e rimpiantata al termine del progetto, e quindi voglio dire, c'è tutto questo tipo di attenzione. Ci sono solo due esempi, ecco. E dunque arriviamo allora a questo settimo bilancio socioambientale. Sempre con noi c'è Ernesto Gori di Costa Crociere. Secondo uno studio dell'IMO, che è l'Organizzazione Marittima Mondiale, in assenza di nuove misure vincolanti, le emissioni derivanti dal trasporto marittimo cresceranno tra il 150 e il 250% entro il 2050. È un tema su cui si sta lavorando molto a livello di Unione Europea. Come fare a ridurre le emissioni? Cosa ha già fatto Costa, che nel bilancio, quello di cui stiamo parlando, vanta risultati interessanti, cioè un meno 3,8% di emissioni di gas serra rispetto allo scorso anno e meno 14,5% rispetto al 2007. Abbiamo attuato quest'anno in particolar modo un attento programma di revisione degli itinerari, di riduzione dei consumi, che ovviamente conseguono una riduzione delle emissioni. È da anni che stiamo lavorando su questo, però direi che quest'anno abbiamo veramente ottenuto un risultato importante, anche perché sul consumo di carburante, questo semplicemente ha una revisione, un'attenzione, revisione degli itinerari, ha un'attenzione alle velocità di crociera. Noi siamo riusciti a ridurre un consumo di circa 15.000 tonnellate di nafta pesante, praticamente permettere a tutte le navi della nostra flotta di navigare una settimana. Quindi voglio dire, di conseguenza c'è una riduzione delle emissioni. Adesso la faccio passare un po' di palo in frasca, però voi con proprio la Commissione Europea siete al lavoro su temi specifici che riguardano la navigazione, no? Noi stiamo portando avanti anche un progetto importante, il progetto Sustainable Cruise, è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea, quindi non è totalmente finanziato dalla Commissione Europea, parzialmente, e Costa Crociere è capofila di questo progetto. È un progetto che sperimenta una gestione delle tecnologie innovative per la prima volta su tre tipi particolari di rifiuti. Quindi parliamo di imballaggi, quindi una gestione e una riduzione degli imballaggi. Lei si può immaginare che quantità di imballaggi arrivano una flotta come la nostra. Certo, basta vedere quello che arriva nelle nostre case e moltiplicarlo. Moltiplichi non so per quanto, poi a N, quindi. C'è un altro elemento importante che è sul recupero della carta, anche qua noi abbiamo una produzione di tonnellate di carta, si può immaginare. Ultimo, ma non meno importante, un recupero del cibo, nel senso che stiamo sperimentando un macchinario che permette di utilizzare il cibo rimasto, non utilizzato, per farne una sorta di compost. Abbiamo già avuto dei primi risultati sui primi campioni, pare che sia una qualità ottima fra l'altro, quindi siamo particolarmente soddisfatti, però stiamo ancora lavorando su questo. Quindi queste sono le caratteristiche principali di questo progetto. Sustainable Cruise. Senta, per curiosità, tipo voi raccogliendo appunto gli scarti di cibo fate questo compost, ma poi dove viene portato? Questo deve essere ancora definito. Abbiamo contatti con delle società che sono interessate all'acquisto di questo materiale, però ad oggi è ancora prematuro. Rifiuti, cibo, c'è anche un grosso intervento sulla flotta per l'acqua. Dunque, sì, sull'acqua noi è una di quelle cose che da sempre, anche perché chi è all'interno del nostro settore sa benissimo quanto sia importante, no? L'acqua, diciamo che ci sono due possibilità per approvvigionarsi l'acqua a bordo. Una è quella di acquistarla direttamente a terra, quindi andando ovviamente a incidere sulle riserve terrestri. L'altra invece, che è quella su cui noi stiamo lavorando attivamente e puntando, è quella invece dell'autoproduzione. Quindi utilizzando i vari sistemi, impianti che abbiamo a bordo, dissalatori, evaporatori, osmosi, eccetera, noi produciamo una grossa quantità di acqua. Non siamo ancora ovviamente autosufficienti al 100%, ma quest'anno noi abbiamo raggiunto il 71% sul totale di acqua autoprodotta, e quindi questo si può immaginare ha un discreto impatto, no? Al di là dei termini economici, perché produrla non vuol dire risparmiare, perché comunque produrla c'è un impegno di tecnologia, di sistemi che devono essere mantenuti, quindi non è tanto un problema di risparmio quanto un problema di non andare invece a impattare sulle risorse a terra. Sempre a proposito di non risparmi, la sostituzione, vedo, di tutti degli impianti di refrigerazione e condizionamento a bordo, anche questo sarà stato uno sforzo economico che darà i suoi frutti, immagino. Però, insomma. Esatto, li sta già dando, perché abbiamo riconvertito gli impianti che davano luogo a emissioni di gas lesivi per la fascia d'ozono. Abbiamo avuto sostanzialmente una riduzione del 50%, cioè quest'anno. Certo, e lo sforzo economico sostenuto in quanto tempo pensate sarà ripagato, diciamo? Questo, sono onesto, non glielo so dire, perché non è un budget che ho creato io, e quindi non ho i tempi di ammortamento. E affrontiamo ora l'altro aspetto del bilancio socioambientale, per poi tornare sul tema dei rifiuti, però, che rifiuti che le navi sbarcano a terra. Lo preannunciamo ora perché sono scoperte interessanti, quelle che faremo con Ernesto Gori di Costa Crociere, e sono scoperte che nascono anche da questa panoramica sull'impegno sociale di Costa, e quindi l'impegno in formazione e attività di solidarietà. Nel 2011, tenga presente che noi abbiamo avuto un incremento di ore dedicate alla formazione di tutto il nostro personale di circa il 40%. Ora, se lei pensa che siamo una popolazione di circa 20.000 persone, si può immaginare, perché io parlo di colleghi a terra e a bordo, quindi metto i 1.000-2.000 colleghi a terra e anche i 18.000 colleghi che sono a bordo, che navigano sulle nostre navi, quindi un 40% di aumento di ore di formazione, e tutto il personale, nessuno escluso, 100% in Costa Crociere, è soggetto a formazione, a un qualche percorso di formazione o più percorsi. Un totale, glielo posso dire, 780.000 ore dedicate alla formazione per il 2011. Poi vedo altri impegni in attività specifiche in Brasile, attività socialmente utili, che sono continuazione, no, di azioni già intraprese in passato, immagino. Sì, è una cosa continua che ormai si è innestata sulla volano, va avanti. Noi a bordo, noi attuiamo una raccolta differenziata del 100% di tutti i rifiuti solidi di bordo. E quindi, dove è possibile, poi questo purtroppo non dipende solo da noi, perché specialmente in Europa la normativa è molto severa, però dove possiamo farlo lavoriamo bene, E ad esempio in Brasile, dove possiamo recuperare tutto quello che vogliamo, noi il ricavato, faccio un esempio, di tutto l'alluminio, che sono metri cubi, migliaia di metri cubi a stagione, viene devoluto poi a delle società locali che poi sfruttano per le attività sociali. Una è la costruzione di una scuola per i ragazzi di strada a Salvador de Bahia, ad esempio, questo è un esempio. L'altro pianeta. E riprendiamo la nostra trasmissione dal punto in cui ci eravamo lasciati con Ernesto Gori, vicepresidente Health Quality Assurance di Costa Crociere. Health è l'acronimo inglese di salute, ambiente, incolumità e sicurezza. Stiamo parlando del bilancio socioambientale della compagnia e ci siamo addentrati nel tema del recupero dei rifiuti che, sebbene differenziati a bordo, non sempre si sa come vengono smaltiti nei vari porti in cui le navi Costa li conferiscono. In Brasile, ci ha detto Gori, le cose filano bene, non solo si sa che fine fa il rifiuto differenziato, ma si può anche fare in modo che il ricavato della vendita del materiale differenziato vada a vantaggio di un'associazione benefica o di una specifica iniziativa. Ma non tutto il mondo è paese, però. Scarichiamo in modo differenziato tutti i nostri rifiuti, però poi diventa responsabilità delle autorità portuali dare seguito, quindi se vogliono smaltire, se lo smaltiscono, se vogliono recuperare, recupero. Quindi purtroppo su questo noi non possiamo incidere. E quindi è per questo che noi sul recupero non abbiamo dei risultati enormi, abbiamo delle percentuali purtroppo non dipendenti dalla nostra volontà, ma non altissime. Quindi è più difficile farlo in Europa di quanto non sia in altri paesi del mondo, quindi? Assolutamente sì. Assolutamente sì, guardi, noi. Cioè, con tutta l'insistenza che ha l'Europa sul recupero, il riciclo e così via. Ma guardi, noi, le faccio un esempio, noi a Savona, ovviamente Savona è il porto caposcalo di Costa Crociere, sì. C'è una partnership con l'autorità che può immaginare come sia ben avviata e sviluppata, e quindi questo ci permette di far sì che le società che si occupano del recupero del materiale a Savona lavorino a stretto contatto con noi, quindi in questo modo riusciamo noi, queste ditte, l'autorità portuale di Savona, riusciamo a governare tutto il processo e abbiamo dei risultati di recupero sull'alluminio, faccio un esempio, sulle batterie al piombo, sugli oli esausti da cucina che sono assolutamente incoraggianti. Questo purtroppo non riusciamo a farlo da altre parti. Non solo, le dirò di più, i porti del nord Europa che sono bene conosciuti, ben avanti, così dicono, sulla parte recupero, prendono tutto e non ci danno modo di sapere, noi lo chiediamo espressamente perché serve ai nostri fini statistici e ai nostri fini di raccolta di dati, avremo bisogno di sapere quello che noi scarichiamo, di quanto viene recuperato, quanto viene avviato a smaltimento. Questo purtroppo non ci è dato di sapere perché le autorità locali, parlo dei porti europei nel nord Europa, si rifiutano di darci i dati. Voi non vi dovete preoccupare, ci date, poi sono problemi nostri, ma questo probabilmente avviene perché loro stessi poi alla fine hanno difficoltà a recuperare. Quindi sembra strano, ma purtroppo è così, noi riusciamo a recuperare l'alluminio in modo più efficace in Brasile che in Italia o nei porti del nord Europa, questa è la realtà. È incredibile. Sì, che poi ci sia appunto una differenza anche tra Savona e un altro porto del nord Europa, dove voi siete gli stessi, l'Europa è sempre la stessa. Cioè, non solo. È assurdo. Con Venezia le dico, ecco. Con Venezia piuttosto che, poi non parliamo di Catania, Palermo, ecco, quindi dove lì poi subentrano altri fattori, altri tipi di problematiche. Quindi noi riusciamo a Savona semplicemente perché comunque Costa e Savona sono una, non dico una cosa unica, ma lavorano in simbiosi, in stretta cosa, e quindi è più facile. Dalle altre parti la legge, che è una legge europea, tenga ben presente, fa sì che diventi il responsabile, quindi il produttore, non è più la nave Costa Crociera che produce il rifiuto nel momento in cui è sulla banchina, ma il produttore diventa l'autorità portuale. Quindi a tutti gli effetti diventa il responsabile, quindi fa quello che vuole. È sua responsabilità, è sua cura far sì che il materiale vada a smaltimento, a recupero, decide lui. E noi purtroppo non siamo coinvolti in questo. Mentre se lo fossimo potremmo sicuramente dare una grossa mano. Ma certo. Perché ripeto, noi arriviamo e sbarchiamo i sacchi di vetro, i sacchi di ceramica, perché noi addirittura differenziamo il vetro dalla ceramica. I sacchi di cenere, i sacchi di cibo, i sacchi di plastica, siamo attrezzati. È un mondo che funziona, ma non parlo, cioè questo non è solo costa, voglio dire, è la realtà delle navi da crociera. Poi c'è chi lo fa meglio, chi lo fa peggio, noi devo dire che ci difendiamo bene, questo con un minimo di orgoglio devo dire che ci difendiamo molto bene su questo. Noi riusciamo. Dai, fate bene a insistere, prima o poi magari il muro si rompe, però insomma. Noi insistiamo, per nostra natura siamo abituati ad insistere, quindi non ci arrendiamo di sicuro. Quindi ci fermiamo qui, era Ernesto Gori che è stato con noi, vicepresidente Health Quality Assurance di Costa Crociere. Abbiamo parlato del bilancio di sostenibilità di Costa, abbiamo scoperto qualcosa su quello che succede ai rifiuti delle navi da crociera quando vengono consegnati nei vari porti del mondo. Adesso però voltiamo pagina e con questa puntata salutiamo e ringraziamo Marco Carminati per la sua collaborazione in questi anni in cui ha tenuto alta la bandiera del patrimonio storico e artistico della nazione con la rubrica Articolo 9. Dalla prossima settimana, con il cambio di orario, perderemo questa rubrica, ma Radio 24 non perderà Marco, che continuerà comunque a condurre Luoghi d'arte e quindi a parlare anche di patrimonio storico e artistico della nazione. Chiudiamo il ciclo con un tema che è molto caro alla radio. Parliamo infatti di patrimonio artistico in uno dei centri più colpiti dal terremoto dello scorso maggio. Andiamo infatti a Finale Emilia. Buongiorno da Marco Carminati. I terremoti sono cose terribili, qualche volta però hanno dei risvolti imprevedibili. È capitato tra l'altro all'inizio del Novecento dalle parti della Romagna, quando un terremoto colpì la zona di Rimini, crollarono gli stucchi che decoravano le chiese, gli stucchi barocchi, e dietro gli stucchi emersero interi cicli di affreschi del 1300, la famosa scuola riminese. Fu un recupero eccezionale che appunto venne favorito dall'evento tragico del terremoto. È bizzarro dirlo, ma anche nel recente terremoto in Emilia è accaduto qualcosa di simile, cioè che i danni provocati ai monumenti, in particolare dal terremoto, hanno poi restituito testimonianze della vita, dell'arte, del passato, addirittura del passato di tanti secoli fa, di queste comunità. Queste scoperte sono state fatte e organizzate sostanzialmente da un assessore, che è l'assessore alla cultura del comune di Finale Emilia, uno dei comuni più colpiti dal sisma, Massimiliano Righini, che è in collegamento con noi. Buongiorno assessore. Buongiorno. Ecco, lei ha fatto una cosa straordinaria, perché appunto davanti a un evento così tragico come è stato quello del terremoto che vi ha colpito, avete avuto la forza di volontà e la presenza di riflessi di organizzare il salvataggio, diciamo così, del vostro patrimonio artistico, che poi è l'identità delle popolazioni che abitano in queste zone. Ecco, io le chiedo che cosa avete fatto una volta avvertito e i danni del sisma, cosa avete fatto per mettere in sicurezza i vostri monumenti? Il lavoro svolto insieme alla sovrintendenza, alla direzione regionale e a tutti coloro che sono arrivati alla volta del 20 di maggio a Finale Emilia è stato quello di cercare di capire subito come si poteva intervenire, qual era purtroppo il conto dei danni che poi via via hanno subito anche qualche ammaloramento successivo con il terremoto del 29. Certo. In merito a quello a cui faceva riferimento lei, soprattutto per la Torre dei Modenesi, edificio che peraltro io avevo studiato in qualità insomma di studioso di fortificazioni medievali e rinascimentali, ci siamo accorti che tra i materiali del crollo c'erano delle cose di cui non si aveva conoscenza. Certo. Ad esempio dei mattoni recanti delle iscrizioni, che ci hanno fatto subito ragionare ad un recupero selettivo, quasi uno scavo archeologico. Certo. Approfondendo poi la questione con la soprintendenza archeologica, ci si è resi conto che in effetti non esisteva un metodo operativo per affrontare questo tipo di situazione, quindi l'abbiamo scritto, condividendolo appunto con la soprintendenza, e subito applicato nel metodo di lavoro che i tanti volontari che sono venuti qui a Finale Emilia per, diciamo, raccogliere quello che è un patrimonio che noi intendiamo usare per la ricostruzione della Torre dei Modenesi, ma come anche per gli altri monumenti. Certo. Quindi il protocollo che noi abbiamo messo a punto per quell'edificio lo abbiamo esteso poi anche al recupero delle macerie, ad esempio del Palazzo Municipale, piuttosto che della Chiesa del Duomo. Certo. Di Finale Emilia, e adesso ci accingiamo fra qualche giorno a partire con la selezione e il recupero ancora selettivo delle macerie del crollo delle torri del Castello delle Rocche. Ecco, io però ho una curiosità. Lei parlava di mattoni con delle iscrizioni. Che cosa c'è scritto su questi mattoni? Una cosa simpatica che è emerse tra i primi, un mattone con la scritta Oibò, ecco. Quindi, che faceva anche un po' sorridere, certo, visto nonostante quello che era accaduto quindi a uno dei monumenti più importanti del nostro territorio. La torre, che è nata nel 1213, ha avuto diverse fasi. Una delle ultime era quella già dal 500, peraltro, oltre che ospitare l'orologio della città, che è diventato, certo, poi tristemente famoso durante il sisma, anche delle persone come abitazione. E di quelle persone ci sono arrivate delle testimonianze, delle scarpe, delle calze, dei cappelli, degli utensili, degli strumenti, ma anche cose più antiche come punte di dardi di balestra, coltelli medievali. Chissà quanto le avranno cercate quelle scarpe, e invece le avete trovate voi dopo 500 anni. Una cosa davvero, davvero strana, e anche, voglio dire, abbastanza, diciamo così, interessante il ritrovamento di una stampa, sì, probabilmente messa lì in maniera ben augurale, non sappiamo. È una stampa del 500 che raffigura una crocifissione che si è in gran parte conservata nonostante il tempo e il crollo dell'edificio. Ecco, quindi l'arte che domina anche le avversità, è quindi un bel messaggio, questo Oibò del mattone che si lamentava da solo fino a questo ritrovamento della crocifissione, che vi spinge sicuramente a continuare su questa strada così efficace e anche così civilmente interessante. Assessore, io la ringrazio molto della partecipazione, grazie. Niente, grazie a voi dell'interessamento, perché lei capisce che noi quello che stiamo facendo tutti lo facciamo perché vogliamo che le nostre città, non solo fino all'Emilia ma anche tutte le altre, si riappropino nel tempo di quello che hanno perso, che sono i simboli della nostra identità storica ma anche culturale. Siamo tutti con lei, assessore, siamo tutti con lei. Grazie. Grazie mille a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie a Marco Carminati ancora una volta per la sua collaborazione in questi anni. Non scordatevelo, l'appuntamento per la prossima settimana è a domenica alle 19.15, quindi non più il sabato nel pomeriggio, ma la domenica alle 19.15. Grazie a tutti per l'ascolto, spero continuerete a seguirci nella nuova collocazione oraria, e adesso linea agli altri programmi di Radio 24 da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto.